9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio per tentare di occuparci con un nuovo appello da parte mia a tutti voi che telefonate all'800 24 00 24, mandate gli sms al 349 238 6666. L'appello è quello di tentare di evitare cose che non c'entrano col tema che abbiamo scelto di approfondire oggi, un tema obbligato, le polemiche dopo la pronunzia del TAR del Lazio, per il quale gli insegnanti dell'ora di religione, questi 25.694 insegnanti nella scuola di ordine e grado italiano, non hanno diritto, contrariamente a quanto era stato disposto, a formulare crediti formativi, ripeto formativi, non scolastici, degli studenti, e quindi per questo non partecipano neanche agli scrutini. Polemiche inevitabili dopo la sentenza del TAR del Lazio, polemiche, lo sottolineo all'inizio, che attraverso entrambi gli schieramenti, quindi almeno oggi tentiamo di tenere il governo e l'opposizione in quanto tale fuori dai vostri interventi, dalle vostre domande agli ospiti che ora passo a presentarvi, perché è una questione che attraversa la cultura, il dibattito pubblico italiano, che divide oltre che appassiona in maniera del tutto trasversale rispetto agli schieramenti. C'è una questione giuridica che ai miei occhi non è quella prevalente di questa pronunzia del TAR del Lazio, delle polemiche che inevitabilmente sono insorte, e cioè la questione giuridica è in ordine al fatto che un insegnamento non obbligatorio come quello dell'ora di religione concorra o meno al credito formativo. Vi dichiaro subito il mio punto di vista, poiché il credito formativo, ripeto, che non è il credito scolastico, il vecchio voto, ma è il profilo generale dell'alunno, concorrono tutte le materie e tutti i corsi non obbligatori, ma che vengono scelti dagli studenti e dalle famiglie. Ricorrerà, lo vedrete sul giornale di oggi molto spesso, l'esempio dei corsi di filatelia. Ecco, se uno fa un corso potendolo scegliere di filatelia, quindi fuori ovviamente dall'obbligo di formazione curricolare, quel corso di filatelia ha diritto alla elaborazione di un credito formativo, cioè a pesare nel profilo generale dello studente, mentre invece alla luce della sentenza del TAR del Lazio dell'altro ieri, questo stesso credito formativo non deriverà dall'insegnamento della religione cattolica, perché, sostiene il TAR del Lazio, la natura non obbligatoria dell'insegnamento e soprattutto la scelta costituzionale ribadita nel nuovo concordato, per il quale la religione è una materia che ha a che vedere con la incorcibile libertà di coscienza individuale, questa libertà di coscienza individuale deve fermare lo Stato al fatto semplicemente di poter garantire questo insegnamento alla libera scelta, ma di qua non ne devono più discendere conseguenze, perché altrimenti si violerebbe il diritto all'eguaglianza degli studenti. Fine del mio postilotto iniziale, che come capite ha un'opinione ma tende a non dirvela se non alla fine. E ora i nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto collegato con noi il Giuseppe Fioroni. Giuseppe Fioroni, buongiorno Fioroni. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Che è un deputato del PD, ex ministro dell'istruzione in un governo di centrosinistra, che ha fortemente voluto la norma che viene invece fatta decadere dalla sentenza del TAR del Lazio, ci dirà come la pensa. Poi abbiamo collegato con noi Lucetta Scaraffia, che insegna storia contemporanea alla Sapienza, editorialista del Riformista. Buongiorno Lucetta. Buongiorno. E abbiamo collegato anche Mimmo Pantaleo, segretario generale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza della CGIL. Buongiorno Pantaleo. Buongiorno a voi. Ecco, io inizierei da Fioroni. Mi pare di capire che lei si trovi d'accordo con la reazione del ministro Gelmini, ma non vorrei cominciare da questo. Arriviamo poi dopo alla reazione della politica, Fioroni. Immagino che tra i nostri ascoltatori sia forte, se li conosco, la tendenza che darà ragione alla pronuncia del TAR del Lazio. Ci rispiega dall'inizio perché lei ha impostato la questione in una maniera difforme rispetto alla pronuncia della sentenza, e perché ritiene che questa sentenza sia sbagliata? Intanto le dico subito, io preferisco non parlare della sentenza, perché le sentenze, quando e semmai diventeranno esecutive, bisogna rispettarle. Io faccio presente due cose. Quando ho emanato l'ordinanza prima degli esami di maturità del 2007, la sezione del TAR diede la sospensiva, cioè bloccò la mia ordinanza, ricorso in Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato, annullando la sospensiva, emanò anche un dispositivo nell'annullare la sospensiva, che contiene alcuni elementi di riflessione molto significativi, che peraltro incidentalmente coincidono anche con il ragionamento che io ho fatto. Quando si parla di credito formativo, si parla di una valutazione complessiva che riguarda la formazione e l'educazione del ragazzo. A questo credito formativo, che all'esame di maturità riguarda un punto su 100 punti, viene assegnato da parte del collegio docente della commissione in una valutazione, dal collegio docente più corretto, in una valutazione complessiva di tutte le attività spontanee e liberamente scelte da ragazzo a completamento del proprio percorso di formazione e di educazione. Io sollevai una polemica che poi è stata più volte ripresa, perché in queste attività libere e spontanee sono state prese in considerazione come crediti, come concorrenti al credito formativo, cioè a questo famoso punto, anche attività talmente libere dalla pittura batica alla cucina magrebina, alla danza caraibica, al possesso dell'autorizzazione per la caccia e la pesca, alla corsa campestre, una infinità di attività che le varie scuole hanno ritenuto comunque allargare la capacità di formazione e di educazione del ragazzo. In questo contesto, emanare una ordinanza che vieta in via pregiudiziale di far concorrere al credito formativo, cioè a quella parte di quel punto che diventa 0,10, 0,20 di un punto, lo dico anche se forse interessa poco ai telespettatori, ma questo è il discorso, un corso liberamente scelto dagli studenti, previsto nel nostro ordinamento e previsto nel nostro sistema normativo e legislativo come l'ora di religione e l'ora alternativa all'ora di religione, che è prevista nel nostro ordinamento e che le scuole debbono poter garantire, e far concorrere anche quel corso e questi due corsi alla valutazione del credito formativo in via pregiudiziale, escluderli, significa, a mio avviso, ledere un diritto di quei ragazzi che hanno partecipato e fatto questa libera scelta a discapito delle altre che ne hanno fatte diverse. Questo è il motivo di fondo rispetto al quale mi sono conformato. Benissimo, perfettamente esplicitato. Gianenrico Corrusconi, che si è collegato con noi, lo era già prima, però io non avevo visto bene lo schermo, quindi mi scuso con lei, Rusconi. Buongiorno, Rusconi. Sì, buongiorno. Ecco, dovendo fare un ideale controcanto, lei oggi scrive un editoriale sulla Stampa in cui dice una parte delle polemiche e quindi una parte della decisione dell'ordinanza emanata dal TAR del Lazio si spiega anche in definitiva, forse anche un po' colpa dei laici, dice lei, nel senso che quando ci si ritrova ogni volta con trincee aperte, perché ormai capita sistematicamente un paio di volte a settimana o al mese che questa questione sia sulla bioetica sia sulla scuola eccetera eccetera laica cattolica riesplode, e mi interessava un secondo capire però prima di arrivare al punto che lei spiega nell'editoriale, se di fronte alla piana esposizione fatta da Giuseppe Fioroni, credito formativo, quindi non credito scolastico, che conta meno di un centesimo nel profilo generale dello studente che va agli esami di maturità, di fronte a una materia scelta dal 91,2%, che cosa c'è di scandaloso in questo? Ma tecnicamente Fioroni ha ragione, però io mi sento vagamente preso in giro tutta questa faccenda, perché la parola chiave è formativo. È chiaro che non c'entra la filatelica e non la filatelica, la caccia, eccetera. Tutto l'equivoco è che è venuto fuori, come spesso succede nel dettaglio, c'è il diavolo, il problema di fondo, che questo paese formativo, in un caso è saltato fuori il solito cardinale Monsignore, è affidato praticamente soltanto a una precisa visione religiosa, perché io non sono affatto contro la religione e neppure al limite contro un'ora di religione, però non demandata in maniera irreversibile e monopolistica a un particolare tipo di visione. Quindi io direi ha tecnicamente ragione, ma non prendiamoci in giro, perché qui è venuto fuori il problema di fondo che impropriamente anche nel titolo di stamattina non è la debolezza, o la, è che in questo paese il pensiero laico è fragile ed è emarginato e non riesce a imporre la cosa fondamentale, che la formazione in una scuola non può essere affidata a una particolare visione etica, religiosa, anche se è legittima. Quindi non prendiamoci in giro. Qui è venuto fuori il problema che sarà rimosso, cioè che la funzione formativa, etica, civica non può essere delegata in questa forma attuale. È un problema che c'è in Europa, che viene discusso. In Germania alcuni land sono riusciti a imporre un'ora di etica in cui c'è anche il pastore protestante, c'è anche l'uomo di chiesa cattolico, c'è Rusconi, anche. E questo è il problema. Rusconi, non la interrompo, ma ci prendiamo in giro. No, non la interrompo, ma la invito a riflettere che la Germania, in quanto a stato etico e che impone l'etica, c'ha una certa tradizione. Lo dico un po' sorridendo, ma nel secolo scorso c'è stato poco da sorridere con la Germania. Vabbè, che noi cominciamo con questo problema. Hanno espiato e sono arrivati. Lei mi sta provocando. Sono arrivati a una ragionevole visione. Ho fatto l'esempio della Germania perché ci vivo un po', certo. Ma ci sono anche. Il problema, quello che voglio dire è, ripeto, non è ironicamente, tecnicamente ha ragione, ma quello che è venuto fuori, nonostante tutto, è che spiega, è che ci sta dietro il famoso problema chiave, sul quale non lo so se si parla stamattina, perché se è il problema dei crediti, va bene, ha tecnicamente ragione. No, ma no, si parla in più in generale, come è ovvio, stiamo parlando della questione anche più in generale. Ecco, sì. E allora penso di aver risposto, poi non so se certo. Siamo gli amici che sono presenti lì e allora, ovviamente hanno visione. Rimaniamo un secondo ancora invece alla questione tecnica, perché poi il diritto si pronunzia su questioni di fondo della vita di un paese, ma partendo da questioni tecniche. Allora, in questo caso, per questo abbiamo chiesto a Mimmo Pantaleo della CGIL, che si ritrova naturalmente nella sentenza del TAR, ma le chiedo di spiegarci, al di là del tecnicismo, diciamo così, senza entrare troppo nel merito tecnico, ma per quale ragione se si continuano ad adottare le disposizioni che erano state date da Giuseppe Fioroni quando era ministro, che erano confermate dall'attuale governo, che il governo intende confermare, perché naturalmente il ministro Gelmini, come trovate sul giornale di oggi, impugnerà e come gli aveva chiesto anche Fioroni fin da ieri la sentenza del TAR, ma per quale ragione, se rimanessero in vigore quelle norme, sarebbero discriminati il resto degli insegnanti rispetto invece agli insegnanti di ora di religione, e per quale ragione sarebbero discriminati il resto degli studenti? Ce lo può spiegare Pantaleo? Sì, allora io credo che bisogna abbassare i toni e soprattutto tornare al merito della discussione che la sentenza del TAR ripropone. Che cosa dice la sentenza? Perché secondo me, ho letto anche stamattina sui giornali tante cose inesatte, il tentativo diciamo di costruire su questo un castello che a mio avviso non ha nessun fondamento. Allora, la sentenza del TAR, riprendendo diciamo il principio di laicità enunciato dalla Corte Costituzionale più volte e che fa del pluralismo religioso diciamo uno dei suoi cardini fondamentali nell'ordinamento democratico, che cosa dice? Che la frequenza o meno dell'insegnamento della religione non può costituire un elemento di differenziazione nel credito scolastico, tale da far pesare diciamo, nella valutazione dell'alunno e degli alunni. Perché è importante questo pronunciamento? Ma intanto perché si stabilisce che, ad esempio, chi non opta per materie sostitutive, no? E soprattutto nelle scuole medie e superiori questo diciamo, è una pratica diffusa, non ha diritto a crediti, tanto per incominciare. Chi frequenta, chi decide lì nelle poche scuole che ci sono di frequentare corsi di altre religioni non ha diritto all'identico credito, e a questo aggiungo che in molte scuole, per effetto anche dei tagli, le possibilità di ricorrere a materie opzionali non ci sono, per cui i bambini e i ragazzi che decidono di non avvalersi di loro religione molto spesso sono costretti a non avere le materie opzionali. Tutto questo determina una chiara disparità. Chi frequenta l'ora di religione ha diritto, sia pure in termini molto più parziali, come diceva Fioroni, ad un credito, chi non frequenta non ha diritto a nessun credito. Questa è la sentenza della Corte del TAR. Di conseguenza, ovviamente, gli insegnanti di religione che partecipano alla definizione dei crediti formativi non possono più partecipare ai collegi nel momento in cui non hanno titolo per definire, diciamo, crediti formativi. Ma ciò non significa che l'ora di religione non partecipa in termini generale alla valutazione. La devo interrompere, perché vede, io non vorrei che continuasse. Lei dice parliamo del merito. Allora, nel merito io intenderei, per chi ci ascolta, essere preciso. Mi faccia fare una domanda. No, perché se io devo accettare l'idea, in punta di diritto, che c'è una discriminazione a danno degli studenti che non scelgono di frequentare, o le cui famiglie, se non sono maggiorenni, scelgono di non frequentare l'ora di religione, lo capirei se questo fosse in ordine a un credito scolastico. Ma in quanto la vicenda attiene, sottolineo perché è importante, il credito formativo, che concorre generalmente quindi al profilo di valutazione dello studente e non in maniera decisiva al punteggio, credito scolastico, che è decisivo per valutarlo, per il progresso del suo curriculum di studi, io lì non capisco, perché se stessimo parlando di crediti scolastici lei avrebbe ragione dal mio punto di vista, per questo le chiedo, mi aiuti a capire. Ma una volta che lei mi ha appena detto, per questo mi sono permesso di interromperla, naturalmente una volta affermato il principio del TAR del Lazio, ribadito il TAR del Lazio, non si discute neanche che la frequenza dell'insegnamento non obbligatorio della religione certo che concorre al profilo generale dello studente. E no, perché il merito della decisione del TAR del Lazio è quello che il 91% degli studenti che frequentano l'insegnamento non obbligatorio, quell'insegnamento lì non obbligatorio non concorre alla valutazione generale del loro profilo formativo, virgola, non alla valutazione numerica decisiva corrispondente ai vecchi voti. E allora, siccome è su questo che stiamo parlando, su questo lei mi dice concorre. No, io ne deduco che dalla sentenza del TAR del Lazio tutte le altre materie non obbligatorie concorrono, come è giusto, in percentuali naturalmente meno rilevanti, molto meno rilevanti delle materie obbligatorie, eccetera, alla valutazione generale dello studente. Mentre questo particolare tipo di insegnamento non obbligatorio non concorre, perché il giudice dice no, perché questo inerisce a una sfera, quella della libertà e della religiosa, per cui non deve inerire, perché si tratta di religione, non perché è una materia non obbligatoria. È corretto o è sbagliato? Perfettamente, guardi. E allora stiamo parlando, però, attenzione, perché abbiamo fatto un passo avanti. Cioè, noi abbiamo capito che la sentenza del TAR del Lazio non ha a che vedere con una materia non obbligatoria e che quindi discrimina in quanto non obbligatoria. La sentenza del TAR del Lazio dice che siccome si parla di ora di religione, è una particolare materia non obbligatoria, e che agli occhi dei giudici amministrativi la religione in quanto tale non deve, in quanto tale, lo sottolineo, non in quanto non obbligatorio, in quanto tale non deve incidere né nel credito scolastico né nel credito formativo. E quindi, attenzione, lo dico per aiutarci a capire il ragionamento, e forse chi pensa che questa sia una decisione in cui non c'è questione di eguaglianza di diritti rispetto a insegnamenti non obbligatori, qui c'è una questione di fondo, che è quella che riguarda appunto l'insegnamento della religione. Allora, Lucetta Scarafia, tornerò a Pantaleo, cioè siamo qui tutta l'ora, quindi non si preoccupi, ma era per consentire di mettere dei paletti. Io li metto così, naturalmente è possibile che voi non siate d'accordo. Lucetta Scarafia, se inoltrandoci nel discorso la questione non diventa quella dell'eguaglianza di diritti rispetto agli insegnamenti non obbligatori, ma diventa quella dell'insegnamento della religione, dell'istruzione religiosa non obbligatoria, ecco, lei oggi scrive, è un po' il controcanto dall'altra parte di quello che scrive Rusconi, che in definitiva anche i cattolici in qualche misura non sono riusciti bene a impostarla questa questione, ho capito bene? Sì, io penso che ci sia stato un errore fondamentale, in cambio di avere il controllo degli insegnanti hanno accettato un'ora non obbligatoria di religione. Io penso che sia veramente incredibile che non si studi, non si sappia nulla della tradizione cristiana, non venga considerato un'ora obbligatoria lo studio della tradizione cristiana in una scuola italiana in cui di tradizione cristiana, diciamo così, sono intessute tutte le materie, in cui i ragazzi non possono capire nulla di storia dell'arte, di letteratura, di storia, anche di dottrine politiche, perché il comunismo non è nato che da una, diciamo così, eresia ugualitaria che nasce dal cristianesimo. Non possono capire nulla senza sapere nulla del cristianesimo. Ora, un tempo l'educazione cristiana veniva demandata alle parrocchie, alle famiglie. In una fase di secolarizzazione avanzata come la nostra, in cui più della metà dei ragazzi in scuola, questo lo dico io perché lo trovo all'università, non hanno la minima alfabetizzazione cristiana. A me è capitato una volta, i miei studenti, metta 150 studenti alla statale di Roma, di domandare per spiegargli una cosa: ma voi conoscete la parabola del figlio al prodigo? E meno della metà hanno alzato le mani, e di questi solo alcuni sapevano solo il titolo. Ho dovuto raccontargli la parabola del figlio al prodigo. Ora, penso che questo analfabetismo delle fondamenta della nostra cultura sia gravissimo, e questo sia un problema che non ha a che vedere con un'ora facoltativa, non ha niente a che vedere con la danza caraibica o con la filatelia. Questa è la chiave di comprensione della nostra società. Penso che questo sia il problema a monte di tutto ciò che succede, ma la religione cristiana deve essere spiegata ai nostri studenti, le altre religioni vanno spiegate poi in linea generale in rapporto alla religione cristiana, perché noi, la nostra cultura deriva dalla religione cristiana. L'ha detto Cacciari molto saggiamente, mi sembra, oggi in un articolo: ma noi studiamo letteratura italiana, studiamo l'arte europea, non studiamo il resto, perché delle religioni, cioè partiamo da noi, e siamo arrivati al punto, appunto, la centralità, vista la tradizione giudaico-cristiana in cui tutti, per la cultura alla quale apparteniamo, in cui cresciamo, in cui tutti, al di là delle diverse convenzioni, siamo nati, cresciamo, e quindi forse dovremmo anche saperne. La scuola dovrebbe darci anche gli strumenti per conoscerlo. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando delle polemiche dopo la sentenza del TAR in materia di non partecipazione agli scrutini e non contribuzione al credito formativo da parte degli insegnanti dell'ora non obbligatoria di religione. Cominciamo con l'opinione di alcuni ascoltatori, innanzitutto Valentino da Brindisi. Prego Valentino. Prego Valentino. Pronto? Eccoci. Valentino, ci dica. Le dispiace, sono in macchina, mancano 20 metri per arrivare vicino alla la richiamiamo, va bene, non avevo capito, credevo fosse in linea e fosse a posto. Fabrizio da Padova, prego Fabrizio. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione e per la sua razionalità, cioè nel vedere il problema nella sua interezza e soprattutto interezza pratica. Io credo che uno dei grossi problemi che abbiamo oggi è l'italianità. Cioè, ormai sembra che ognuno corra per conto suo. Io sono italiano, mi sento italiano, sono orgoglioso di essere italiano, ho lavorato per moltissimi anni all'estero e non sono andato all'estero per l'Oktoberfest o per andare a Sharm el Sheikh, ma per motivi lavorativi. Fabrizio, però l'italianità, che cosa in questa materia? L'italianità vuol dire essere anche cattolici. Noi non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo. Io sono felice di essere cattolico, me ne vanto, soprattutto perché ho potuto fare dei paragoni concreti con le altre religioni. Quando uno va nei paesi arabi, di fatto deve confrontarsi con la loro cultura, per cui il ragazzo che studia a scuola, se la scuola deve essere formazione, di fatto deve essere conscio anche della religione di quel paese, per cui è giusto che la studi. Io ho avuto un'amica che è andata in Palestina e questa signora ha pensato bene di prendere il sole, non dico nuda, ma in reggiseno. È stata aggredita, e non verbalmente, fisicamente, e fatta rivestire. Allora, voglio dire, noi siamo in un bellissimo paese e la religione cattolica ha aiutato, perché la religione cattolica di fatto ci porta a mettere in primo piano l'uomo. Capito benissimo il suo argomento, naturalmente vi devo tenere anche un pochino al merito della faccenda, perché il merito della faccenda è un merito che deliberatamente o per finta, come capita sempre con gli argomenti giuridici, non coincide con la rilevanza ovviamente della scelta religiosa e dell'importanza del cattolicesimo e del cristianesimo nella storia italiana. Fa una questione delicata in punta di diritto, una questione in punta di diritto che mi pare nella prima mezz'ora abbiamo un messo a fuoco, però, ed è molto scivolosa, perché la mia opinione è che si presta assai più all'interpretazione discriminatoria verso chi sceglie quell'insegnamento non obbligatorio in quanto è religioso, e di fronte alla religione, lo Stato laico richiamato dalla Costituzione, dal giudice amministrativo di Roma, lo Stato laico dice no, quella è materia che tanto deve rimanere ferma e chiusa nella libertà di coscienza individuale che in nulla deve contribuire anche solo al minimo profilo formativo e non del credito scolastico. E questa, secondo me, la questione di fondo di questa pronunzia. Cioè, se sia corretto o meno, se sia coerente alla storia italiana, alla natura larghissimamente prevalente della nostra popolazione, questa intransigenza assoluta nel dire lo Stato di fronte a un fenomeno individuale come quello religioso, e sottolineo individuale perché a mio occhio non è individuale, però lo Stato dice è puramente individuale perché altrimenti metto in discussione il trattamento paritario ed egualitario dei miei cittadini, e di fronte a quello quindi giammai lo Stato, per garantire l'eguaglianza, deve dire te lo fai nella tua testa se vuoi, se puoi, se ritieni, se credi, ma se io solo dessi a questo un rilievo, a questa piccola cosa che si chiama la religione cattolica e il cristianesimo, allora sarei uno Stato non più egualitario. Quando la CEI reagisce con la nota di cura durezza di ieri dicendo bieco illuminismo, che è molto dura, è molto aspra, tanto che insomma molti si grattano la testa di fronte a questi toni, secondo me ha in testa proprio la sottile durezza però del discorso a nome dello Stato fatto dal giudice amministrativo di Roma. Sentiamo ancora Piero da Roma. Piero, prego. Buongiorno. Prego. Volevo innanzitutto poter dire che io sono completamente d'accordo con la sentenza del TAR del Lazio, in quanto ritengo profondamente che uno Stato debba essere laico, o perlomeno il nostro lo dovrebbe essere, come diceva Cavour, libera Chiesa in libero Stato. A parte questo però io volevo ricordare quello che mi è successo quando 47 anni fa io mi sono iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano. Università Cattolica, per questo che mi sono permesso di telefonare, e mi presentarono il piano di studi che io firmai e poi mi dissero guardi che lei però per ogni anno di studi deve superare un esame che è l'esame di morale, che di fatto era esegesi biblica. Bene, devo dire che l'insegnante era una persona molto intelligente, si chiamava Guido Aceti, e non ero altrettanto favorevole alla valutazione nei confronti del preside che era Gianfranco Miglio. Comunque sia, questo esame, povero Miglio, io invece ero un fan di Miglio, povero, vabbè, però io lo vedo dal punto di vista, certo, dello studente che vede il barone, perché a quelle dica sì padre, sì prego prego però e quindi allora torniamo a bomba. Questo esame doveva essere superato e non poteva essere superato se non conseguendo il 30 o il 30 e lode. Meno di questi voti non si poteva accettare. Lei capisce che si è iscritto all'Università Cattolica, quindi non c'è molta attinenza con quello di cui stiamo parlando. Questi esami non avevano nessun valore agli effetti del conteggio per il voto finale. Non solo, ma padre Aceti non partecipava al consesso di coloro che poi davano il voto finale al momento della discussione della tesi. E io domandai proprio a Guido Aceti, dissi ma scusi padre, ma per quale motivo voi fate studiare una persona, prendete 30, 30 e lode, poi non fa conteggio, non fa male, e lei non viene, e questo mi ha guardato, mi ha detto lei Andrea deve considerare che se noi facessimo una cosa del genere praticamente metteremmo gli studenti dell'Università Cattolica in una posizione di vantaggio in rapporto agli studenti di tutte quante le altre università d'Italia. Chiarissimo, chiarissimo, però le faccio osservare che ancora una volta ne sta confondendo, perché lei, sia pure in un paragone un po' improprio, però lei sta parlando di voti decisivi. La risposta che gli veniva data di fronte al fatto che quello non facesse media, per così dire, fine della tesi, era relativa all'equivalente dei crediti scolastici nella scuola italiana, e noi non stiamo parlando di questo. Continuo a ripeterlo perché è importante questa faccenda qua, cioè se stessimo parlando dei crediti scolastici avrebbe molto più ragione una pronuncia come quella della, ma noi non stiamo parlando di questo. Fioroni, torno a lei per dire, come vede, non lo scopre oggi, questa è una classica materia che divide invece che unire gli italiani e anche la politica. La sua opinione rispetto al fatto che Rusconi dica da una parte è un po' colpa dei laici non aver saputo distinguere bene, e a Scarafia che dice abbiamo i cattolici hanno voluto fare una specie di baratto improprio tra l'ipertutela e l'influenza nello scegliere gli insegnanti da una parte e poi accettare un'istruzione non obbligatoria, lei dove si sentirebbe di mettere il suo contributo oggi per tentare di rasserenare un po' gli animi e parlare del merito invece che allargarci così tanto e dividerci? Ma intanto io credo che il dibattito che si è sviluppato questa mattina dimostra a mio avviso una cosa, che l'ordinanza la sentenza del TAR ha poco a che vedere con l'ordinanza che rispetta l'assetto normativo e giuridico esistente e riguarda un dibattito che va al di là. L'ordinanza del TAR mette in discussione altre cose, mette in discussione il concordato che vige tra il nostro paese e la Santa Sede, mette in discussione un tema sensibile sicuramente come l'etica pubblica, ammesso che ci debba essere un insegnamento di etica pubblica, cioè tutti temi sicuramente affascinanti ma che hanno altre sedi e altri contesti del dibattito politico e delle decisioni parlamentari, oltre che dibattito culturale nel paese, ma che nulla hanno a che vedere con il diritto degli studenti che frequentano il corso libero di religione e i vari corsi di materia alternativa di essere comunque in grado di poter vedere concorrere i loro sforzi al credito formativo, perché abbiamo parlato di tutto, non si può liquidare, questo è un tecnicismo, il rispetto delle leggi non è mai un tecnicismo, evitare una valutazione pregiudiziale che danneggia qualcuno non è mai un tecnicismo per chi si occupa del governo della cosa pubblica, quindi questo mi sembra un primo dato che emerge con chiarezza. Un secondo aspetto, se le scuole hanno carenze di fondi, io credo, rispondendo a Rusconi che molto probabilmente, a Pantaleo, che molto probabilmente un primo tema sarebbe quello di evitare i tagli al sistema di istruzione pubblico di questo paese e consentire che l'ora alternativa all'insegnamento di religione possa essere liberamente scelta e liberamente svolta all'interno delle scuole. Non è che c'è qualcuno che impedisce, la norma prevede che l'ora di religione abbia un'ora alternativa da essere scelta dagli studenti, se il limite sono i fondi non è che per questo si danneggia il 91% che ha fatto una scelta, ma si evitano i tagli ai fondi per consentire anche questo, oltre che a molto altro nella nostra scuola. La terza considerazione, per quanto anche riguarda gli insegnanti di religione, anche qua siamo passati da una fase di scelta del vescovo a una fase in cui sotto il precedente governo Berlusconi è stata rivista con un lungo dibattito parlamentare i concorsi, le ammissioni, le introduzioni in ruolo, e l'ora di insegnamento è diventata un'ora di insegnamento curricolare, non è l'insegnamento del catechismo e del proselitismo profide della religione cattolica, ma è dare quella alfabetizzazione, come ha detto la Scarafia, che oggi già avviene all'interno delle nostre scuole, che consenta di apprendere quelle nozioni che sono utili a leggere la storia, la tradizione, la cultura del nostro paese. E poi mi pongo una domanda per concludere, è importante ricordarci da dove veniamo, ma diciamoci anche la verità, se non ci ricordiamo da dove veniamo, ma vogliamo guardare con attenzione a dove vogliamo andare, siamo sicuramente convinti che un ragazzo che deve affrontare le sfide di questo complesso terzo millennio nel mondo del lavoro, della cultura o della propria professione sia veramente più ricco e dotato di tutti gli strumenti che gli servono per competere in Italia e nel mondo se non riesce a poter intendere e comprendere a fondo anche quella storia e quella cultura che tanti millenni hanno caratterizzato la vita nel nostro paese e nella nostra Europa. Io credo che non dovremmo interrogarci soltanto su un astratto conflitto tra laici e cattolici, ma credo che per quanto mi riguarda è spesse volte sovraccaricato, ma dovremmo anche domandarci di ciò che occorre ai nostri ragazzi, perché leggendo di storia, di arte, di letteratura, di filosofia o di qualunque cosa abbiano tutti gli strumenti che gli serve. L'insegnamento dell'ora curricolare di religione inserita nei programmi a seguito di decisioni degli organismi democraticamente eletti di questo paese prevede questo, e non tenere presente che questo, oltre che qualcosa di indispensabile per dove vogliamo portare i nostri ragazzi, è una pregiudizio impedirgli di poter essere valutata all'interno di quell'ampia sfera di credito formativo. Poi se vogliamo discutere di rivedere i crediti formativi, quella è un'altra questione ancora, certo. Alcuni titoli hanno senso ad esserci e molto probabilmente molti altri no. Io sono il primo che ci ha messo mano e mi auguro che la Gemini, certo, voglia continuare. Però cioè, non carichiamo l'ordinanza del TAR di qualcosa che non gli compete. L'ordinanza del TAR, la sentenza del TAR deve dire se la mia ordinanza ha rispettato le leggi oppure no, e non un dibattito filosofico e culturale. Mi auguro che il Consiglio di Stato, come già allora, evidenzi l'interesse prevalente, che è quello di non danneggiare coloro che, avendo fatto un corso previsto negli ordinamenti e nelle leggi, possa concorrere per lo 0-10 a quel punto su 100 dell'esame di maturità. E questo non è un tecnicismo, ma è un non ledere un diritto di coloro che hanno voluto liberamente fare una cosa, come di quegli altri 9%. Chiaro, devo interrompere perché era molto chiaro quello che ha detto, ma il tempo è tiranno. Rusconi, c'è un punto, perché l'insegnamento non obbligatorio della religione cattolica però è anche definito nel nuovo concordato che regola i rapporti tra Stato e Chiesa. Ecco, la domanda che le faccio è questa: ma questo nuovo concordato, che quello che si deve a Bettino Craxi, alla fine ha segnato un punto a favore di chi, se lei dovesse dare un giudizio oramai storico a distanza di anni? Cioè, è stato una cosa che ricomponeva e chiudeva dopo i patti lateranensi, o come si vede si riapre ogni qualvolta che si scopre bioetica, insegnamento eccetera, che questa è una questione che resta irrisolta nel paese della questione romana? Lei che pensa, Rusconi? Ma ha già risposto lei con la seconda parte della sua domanda. In realtà, al di là delle buone intenzioni, non si è fatto davvero un passo in avanti, appunto. Per esempio, non a caso il Fioroni, che è abilissimo, non ha mai detto la religione cattolica, e io non ho nulla contro il cattolicesimo, però non è un caso che tra coloro che hanno fatto richiesta al TAR c'erano le altre religioni che si sentono discriminate. Allora, per rispondere alla sua domanda, l'operazione che ha fatto il governo Craxi, secondo me, è rimasta ancora indietro rispetto a quella visione aperta, non illuministica nel senso clericale del termine. La storia italiana, cara Scarafia, è fatta anche della borghesia laica, è fatta anche dei movimenti. Quindi io assolutamente sono d'accordo, la religione non è un fatto privato, è un fatto rilevante socialmente, ma nella sua complessità, la pluralità delle religioni, la pluralità anche delle religioni che ci appaiono così diverse e ostili, come diceva prima un ascoltatore. Allora il problema mio è, lo dico con molta chiarezza e durezza, è sottrarre l'ora di educazione, di formazione religiosa ha una visione limitata, storicamente limitata, clericalizzata, al di là delle buone intenzioni. Fare davvero una storia del fenomeno religioso, certo, chi lo farà? Questo è il vero problema. Ecco, in questo senso che si partiva all'inizio di un'ora fa, quando diceva la debolezza della cultura laica non contrapposta all'altra. Fioroni, piantiamola anche di noi di fare questa storia. È che di fatto la nostra cultura, l'ho detto e l'ho scritto, quando si tratta di religione va dai preti. E perché? Questa è la debolezza nostra. Allora è l'occasione di fare questo salto e di correggere in positivo, secondo me, la mancata innovazione al tempo di Craxi, perché secondo me questo è il punto. È formativa, e se formativa va al di là dei numerini, è formativa, e sono convinto che è formativa, perché siamo tutti di formazione, almeno chi sta parlando qua, di formazione cristiano-cattolica, che è una variante, preciso. Eccetera. Preciso, eccoci tornati in studio. Come immaginavo, il raffica di SMS hanno, diciamo, una finestra polemica e una forbice polemica molto differenziata, chi mi dà dell'integralista, chi mi dà del pagato dal Vaticano, chi... non lo so, alcuni sottopongono questioni delicate, per esempio c'è un padre che dice: mia figlia unica in un liceo a non aver seguito l'insegnamento è stata a mio giudizio però palesemente discriminata. Altri, la maggioranza di tra voi che mandano SMS, sono d'accordo con la sentenza del TAR del Lazio, perché dicono: lo Stato laico deve mettere tutti i cittadini nelle stesse condizioni, quindi via l'indottrinamento dalle scuole. Ne leggo solo una, sono parecchie a ripetere questo termine di indottrinamento. A me non pare che un insegnamento come quello configurato oggi nella scuola italiana non obbligatorio sia l'indottrinamento. Tra l'altro, su questi 26.000 insegnanti, l'88-87% non sono affatto preti e così via, però mi chiedo quanto poi conosciamo davvero come concretamente funzionano questi insegnamenti nella concretezza della scuola italiana, prima di dare questi giudizi. E allora faccio per questo la domanda di nuovo a Pantaleo, a chi rappresenta qua la CGIL. Ecco, dal punto di vista, ci soffermiamo un secondo su questa questione delicata, l'ha sollevata la Scarafia, ci è tornato sopra poi anche Fioroni, a giudizio della sua parte, per così dire, nei meccanismi di scelta di chi insegna l'ora di religione, esistono davvero dei meccanismi di privilegio? In parte sì, vorrei fare soltanto un esempio. A fronte di tagli pesantissimi che sono stati introdotti dal ministro Gelmini, 42.000 insegnanti in meno, gli unici a non essere toccati sono stati gli insegnanti di religione, ma si potrebbero fare tanti altri esempi, ma non è questo il punto a mio avviso importante. Io ritengo che gli insegnanti di religione abbiano pieno titolo di stare oggi nella scuola pubblica italiane, abbiano una funzione fondamentale. Naturalmente questa funzione è tanto più forte quanto effettivamente la scuola garantisca un effettivo pluralismo religioso, che oggi non è garantito, perché da questo punto di vista io vorrei sottolineare questo fatto. Io sono d'accordo col fatto che la cultura e la tradizione di questo paese è una cultura e una tradizione religiosa e va in qualche maniera esposta in termini storici oggi ai ragazzi e alle ragazze di questo paese, però identico diritto riguarda oggi la pluralità di religione, il fatto che questa è una società sempre più multietnica. Penso al fatto che 600.000 bambini quest'anno sono stati iscritti, 600 figli di emigrati sono stati iscritti alla primaria. Insomma, abbiamo bisogno di una scuola che in qualche maniera sia aperta al pluralismo, perché anche così io credo che si rafforza oggi la funzione importante, diciamo, degli insegnanti della religione e dell'insegnamento della religione. Molto spesso invece appare quasi come un'imposizione, come una sorta di pensiero unico all'interno delle scuole. Questo non va bene, perché io penso che oggi la difesa intransigente della laicità della scuola è un bene prezioso per la scuola e anche per chi sostanzialmente si avvale dell'insegnamento di religione. E da questo punto di vista la mia opinione è che una sentenza come quella del TAR, depurata, diciamo, dalle forzature ingiustificate, può consentire effettivamente di dare di eliminare differenziazioni che oggi ci sono e mettere, diciamo, tutte le religioni o chi non si avvale di alcuna religione sullo stesso piano, sulla stessa possibilità di essere valutato in termini obiettivi e non essenzialmente se uno si avvale o non si avvale della religione. Ecco, da questo punto di vista io credo che noi abbiamo bisogno di una grande innovazione culturale nei prossimi anni. Lucetta Scarafia, come risponde una storica come lei, che rivendica, insomma, l'appartenenza ed è anche capace poi criticamente di dire che però per come funziona davvero l'ora di religione significa che poi è stato più materia di scambio tra Stato e Chiesa che una risposta culturalmente all'altezza della questione nella società italiana, però come risponde a chi dice: ah, ma lo Stato su questo, di fronte alla società multietnica, multiraziale e soprattutto anche multireligiosa, multiconfessionale, perché dovrebbe continuare a fare una scelta come quella del nuovo concordato? Intanto perché nessuno può capire le altre religioni, le altre culture se non conosce la propria, se no fa un'insalata assurda di tante cose diverse senza capire di come è fatta la propria identità. Cioè, uno non può pensare che la nostra non esista una cultura occidentale e in particolare anche una cultura, una tradizione italiana intrisa di cattolicesimo, che può piacere o non piacere, che però è quello che in cui noi siamo stati allevati e vissuti. Uno non può leggere Manzoni a scuola, Dante e non capire da che cosa, su che cosa questi basavano la loro visione del mondo. Poi naturalmente è importante in questo momento storico conoscere cosa dice l'Islam, cosa dicono le religioni orientali, cosa dicono le altre religioni cristiane, questo che è un problema meno impellente, diciamo così, però perché ci sono meno presenze e che perché sono più note, molto più note. Però è chiarissimo che la cosa fondamentale è partire dalla conoscenza delle proprie radici e della propria tradizione, e poi capire le differenze. Se uno viene insegnato a pari livello, cioè in pari modo, con l'uguale tempo, ebraismo, islam, non so, tutte le religioni, alla fine non capisce più chi è, pensa che di trovarsi davanti a un ventaglio di possibilità a cui può o meno accedere, non capisce che lui viene da quella tradizione lì ed è intriso tutto quello che legge, l'ordinamento giuridico. Cioè, è vero, come dice Rusconi, che c'è stata anche la borghesia laica, sì, la borghesia laica c'è stata dall'Ottocento in poi, diciamo dalla Rivoluzione francese in poi, anche la borghesia laica, come dice Gauchet, diciamo l'uscita dal cristianesimo fa parte del cristianesimo. Non è un caso che la laicità è la secolarizzazione è un fenomeno che si è realizzato solo nei paesi di radice cristiana, quindi anche la secolarizzazione è in qualche modo cristiana. Se uno non capisce il cristianesimo non può capire neanche la secolarizzazione, non può capire neanche la borghesia laica che ricordava Rusconi. Cioè, bisogna che le persone e i ragazzi vengano messi a conoscenza della propria, di chi sono, dopodiché da dove vengono e quali sono le radici della propria cultura. Dopodiché certo gli devono essere insegnate le notizie sulle altre religioni, buone notizie fatte bene, informazioni ben fatte delle altre religioni, soprattutto dei ragazzi con cui si trova a che fare, soprattutto dell'Islam, che adesso è un problema grave. Però non possono essere fatte allo stesso livello. Io penso che in questo senso l'ora di religione dovrebbe essere obbligatoria e dovrebbe trasmettere la tradizione cattolica. Poi ci dovrebbero essere anche però insegnamenti, un'ora di insegnamento di altre tradizioni religiose, questo sì, però con prevalenza della tradizione cattolica. Rusconi, a questa proposta dell'ideale ministra, diciamo per un giorno, Lucetta Scarafia, lei come controministro, a quel punto immagino dell'opposizione non politica, ma su questa questione, come risponderebbe? Quale sarebbe la sua ideale organizzazione e offerta invece formativa su questi punti? No, ma perché mi vuole contrapporre? In realtà molte delle cose, quasi tutte delle cose che lei ha detto le condivido, se non che arrivo al punto di vista diverso dal suo, di non essere preoccupato di affermare le famose radici. A me sono talmente rilassato e tranquillo delle mie radici che sono diventate ragioni laiche, a me piace sempre questa frase, radici cristiane diventate ragioni laiche, all'interno della quale non temo di confrontarmi con l'Islam. A questo proposito voglio fare un piccolo flash a proposito della Germania, se il mio moderatore non si evita. È successo qualche mese fa una cosa che purtroppo non se ne è parlato, cioè che un grande scrittore islamico ha detto: ma per noi Gesù crocifisso, Dio crocifisso è una blasfemia. Dio mio, tutto è venuto giù. Ma che scoperta! Non avete mai letto il Corano? Che cosa vuol dire? Come mai? Capisce? Queste cose qua hanno un effetto scioccante che va affrontato proprio dalla nostra maturità, che io definisco più laica ormai che cattolica. Ecco perché il vero problema, cara Scarafia, è che né lei né io riusciremo a convincere il Vaticano e i vari ministri che occorre andare al fondo di questo problema. Quando dico scuola con etica nel senso ampio, è questo, ma è difficilissimo, e in questo senso un'intera classe, non solo laica ma anche cattolica, non è pronta. Ecco perché stamattina non abbiamo divagato, abbiamo toccato il punto della nostra civilizzazione, che io preferisco declinare in termini laici, ma non che contrappongo ai termini cattolici, come se fosse questa ossessione della radice, questa immagine della radice, come tu strappi le radici. Ma smettiamola con questa metafora, è che la sfida è enorme, e questa sentenza del TAR, senza volerlo, ci ha consentito di dire delle cose importanti, però temo che la politica nel senso deteriore dei prossimi giorni farà precipitare tutto alle solite insulti tra laici e cattolici. Fioroni, teme che questo rischio evocato da Rusconi sia vero, davvero? Ci sarà una nuova degenerazione? Ma io mi auguro di no, anche se i precedenti dimostrano che su questo la politica, quando si parla di rapporto tra i temi di bioetica o di biopolitica, si mettono in piedi sempre relazioni difficili tra di noi, che sono tipiche di chi non è sufficientemente preparato, e le nuove frontiere di questo dibattito, che dovrebbero essere più protese al reciproco ascolto per fare una sintesi che ci faccia fare qualche passo avanti di più a tutti, sono complicati. Una sola aggiunta su quello che ha detto la professoressa Scarafia. Io credo che poi anche quello che ha detto Rusconi. Tempo, rapido. Ecco, no, questa ora alternativa che esiste nell'ordinamento ma nelle scuole non c'è, non è solo un problema di fondi, è anche un problema di pensare come questa ora alternativa possa essere offerta, e come nella capacità di offrire un'ora alternativa, che poi potrebbe diventare una doppia scelta per i ragazzi, possa rappresentare anche una forma comparata di allargare gli orizzonti delle conoscenze anche nel campo etico e religioso. Grazie a Fioroni, Scalafia, Rusconi, Pantaleo. Molti messaggi intolleranti, devo dire, oggi abbiamo toccato proprio il punto da parte degli ascoltatori SMS, tantissimi, e questo me ne dispiace, spero di non essere io a evocarli. Comunque l'appuntamento a domani, e grazie a Giorgio Matteo in regia e Alessandro Marco Turni in redazione. La linea al Giornale Radio.